Prima edizione. L'informazione del mattino. Le 6, 13 minuti e 30 secondi in questo istante. Cominciamo prima edizione di questo martedì 10 aprile. E lo facciamo nel ricordo di una giornalista, una scrittrice che è morta ieri, che ha raccontato davvero 60 anni d'Italia. La morte di Miriam Mafai, attenta narratrice dell'ultimo mezzo secolo di storia del nostro paese, spirito critico della sinistra italiana. Lo sentivamo in GR24, oggi in Campidoglio sarà aperta la Camera Ardente. Ma prima di andare allora sulle prime pagine dei giornali, dove tante volte l'abbiamo vista scrivere, dalla Repubblica, dal suo quotidiano, un po' di zapping con il ricordo del direttore Ezio Mauro. Veniva al giornale al mattino quando stava bene, interveniva in riunione con quel suo modo di argomentare che era tipico di una persona che aveva idee forti, robuste, ma sapeva ascoltare gli altri perché si sforzava di capire. Era come se Miriam, fuoriuscita dalla corazza dell'ideologia comunista, avesse questo sforzo continuo che per lei però era qualcosa di naturale, di cercare di capire l'argomentare degli altri, ma non soltanto stare ad ascoltare, lasciarsi provocare, lasciarsi toccare, come se ci fosse sempre qualcosa da apprendere, qualcosa da imparare. Ci sono due aspetti, c'è il suo riformismo, io lo chiamo così, cioè l'idea di una sinistra capace di parlare all'intero paese perché capace di intendere le ragioni di tutti, e poi c'è il suo giornalismo, che era un giornalismo che sapeva spiegare proprio perché prima voleva capire, e poi questo sorriso, questa presenza umana, questa donna fortissima e dolcissima insieme. Il ricordo di Miriam Mafai. Prima edizione. Che succederà nel Carroccio? Oggi sarà una giornata importante, gli appuntamenti sono su tre fronti perché ci saranno nuovi vertici dei magistrati e quindi potrebbero arrivare nuove decisioni importanti. Dall'altra parte ci sarà la prima riunione in via Bellerio del triunvirato chiamato a guidare il Carroccio, e terzo appuntamento con la base questa sera a Bergamo, la cosiddetta manifestazione dell'orgoglio padano. Sono attese moltissime persone e soprattutto lì si capirà cosa vuole la base leghista. Allora, è indubbiamente questo il tema che domina sulle prime pagine dei quotidiani di fatto all'avvio lavorativo di questa settimana. Ecco una carrellata: Corriere della Sera, Lega, l'ora dei passi indietro, La Stampa, la resa dei conti nella Lega, La Repubblica, Lega, si dimette anche Bossi Junior, si dimette il figlio di Bossi, scrive il Messaggero, il Sole 24 Ore non ce l'ha esattamente in apertura, ma sicuramente in grande evidenza in prima pagina. Renzo Bossi si dimette, Calderoli ora deve lasciare Rosi Mauro. Ecco dunque questo il tema su cui tutti più o meno si concentrano. Qualche commento, qualche analisi, sono molti, ci sarà tempo come sempre nel corso della mattinata. Intanto qualche piccolo assaggio. Il Corriere della Sera ricorda che stasera ci sarà appunto la manifestazione a Bergamo con toni da rese dei conti e sfida per la leadership, e c'è pressing su Rosi Mauro, molti chiedono via oggi. Le rivelazioni, l'autista bancomat e i segreti del Trota, l'autista di Renzo Bossi che racconta: lo pasturavo io, gli davo io i soldi della Lega. C'è anche un video pubblicato dal settimanale Oggi, ve lo faremo sentire più avanti, a prima edizione. Così maroniani preparano l'assalto, scrive Marco Cremonesi sempre sul Corriere della Sera. L'appuntamento di Bergamo potrebbe diventare epocale, sarà l'apoteosi di Maroni. I militanti padani vogliono dimostrare che il movimento è unito ed è unito dietro al Bobo. La Stampa, anche qui molte i commenti. La notte delle scope, scrive Giovanni Cerrutti, sarà la notte delle scope, almeno 100 leghisti sul palco di Bergamo con la ramazza in mano. E poi ancora Michele Brambilla: Rosi è l'ora di lasciare Roma ladrona, il pressing, dicevamo, su Rosi Mauro. La Repubblica, l'autista, anche qui ero il suo bancomat, Calderoli ora lasci anche Rosi Mauro, oggi il vertice in procura, imminenti nuovi avviso a Bergamo, i maroniani preparano la spallata. E poi a fianco sempre sulla Repubblica: soldi ai partiti, entro domani le nuove regole. Scrive il Sole 24 Ore: Maroni piglia tutto in provincia, l'inchiesta e le divisioni lombardo-venete, piccoli verminai crescono, passi via Bellerio, ormai una specie di Sodoma e Gomorra dell'autonomismo, ora è scattata la competizione mai sopita tra i veneti e i lombardi. Mariano Maugeri sul Sole 24 Ore. Trore, il conflitto verte sulla supposta purezza degli uni, i veneti, a discapito degli altri, appunto, i lombardi. Una tesi ardua da dimostrare, ma che sta dividendo la Lega in queste ore. Così i quotidiani di quest'oggi. La Padania, naturalmente, non poteva non mancare questa mattina nella nostra carrellata. E allora, la rabbia e l'orgoglio, rivoluzione reghista, così scrive questa mattina la Padania, e poi compare un'immagine proprio di Bergamo. Stasera la capitale della Lega, Bergamo Alta, e qui attendiamo proprio la resa dei conti. Ma lasciamo un attimo i quotidiani per farvi sentire con un zapping TV proprio cosa ha detto Renzo Bossi, che dicevamo ha deciso di dimettersi. In questo momento di difficoltà del mio movimento, senza che nessuno me lo abbia chiesto, do il buon esempio. Faccio un passo indietro e mi dimetto da consigliere regionale. Sono fiducioso che la magistratura saprà dare tutte le risposte alle domande che oggi ci si pone. Qual è il suo stato d'animo adesso? Sono assolutamente sereno, so cosa ho fatto e cosa soprattutto non ho fatto, ma soprattutto non sono indagato. Lei è uno dei pochi comunque a non essere indagato in questa vicenda? Sì, ma soprattutto in Consiglio regionale direi che negli ultimi mesi ci sono stati diverse vicende giudiziarie che hanno portato a essere indagate più di una persona. Io non lo sono, ma credo sia giusto e opportuno in questo momento per il mio movimento fare un passo indietro. Suo padre si è dimesso da segretario del movimento, come sta adesso? È stata una scelta sicuramente difficile, ma l'ha fatta proprio per salvare il movimento e dare a tutte queste domande che oggi anche la gente ci si pone tutte quelle risposte che nel giro di poco tempo si avranno. Così le parole direttamente di Renzo Bossi da TGcom 24. Renzo Bossi, che dicevamo si è dimesso, e quest'oggi sulla prima pagina di Brescia Oggi c'è una lettera aperta. Cari elettori bresciani, ecco perché ho deciso di fare un passo indietro, questo è il titolo. Perché su Brescia Oggi? Perché ricordiamo, Renzo Bossi è stato eletto consigliere in Regione Lombardia proprio nel collegio di Brescia, quindi dagli elettori leghisti bresciani, e scrive così, leggiamo da Brescia Oggi: torno tra i ranghi per evitare che a pagare le conseguenze dell'attacco incrociato sia l'intero movimento e soprattutto mio padre. Ho la tranquillità di chi sa che non ha mai fatto nulla di quello che è stato riportato dai media. Quando la Lega Nord propose il mio nome per la candidatura mi sono sentito lusingato. Non faccio mistero di come il cognome che porto mi abbia aiutato, ma mi ha anche gettato in prima linea e costretto a dimostrare ogni giorno che oltre le 12.000 preferenze prese sul territorio erano frutto del mio lavoro. Così Renzo Bossi. Dicevamo, oggi intanto si attendono sviluppi importanti, vedremo che succederà. Le altre notizie nel frattempo sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Allora, i tagli centrali invece sono molto diversi, ognuno sceglie un tema, ci sono diverse interviste. Tra l'altro, centro pagina del Corriere della Sera, un'intervista al segretario del PDL Alfano, che parla di molti temi, dal fisco al futuro dei partiti, alla riforma dei finanziamento pubblico. L'intervista sul Corriere della Sera, Alfano, IMU solo per il 2012, dice tra l'altro sul fischio niente sorprese, presto un vertice con il Premier, e sui fondi ai partiti dice sì alla riforma in due giorni Alfano. Alfano che parla in questa intervista al Corriere della Sera anche dello scandalo che ha sconvolto la Lega con Roberto Maroni. Prevedo un rapporto di collaborazione ottimo, così come del resto lo è stato in passato, dice Alfano, che di fatto dà quasi per scontato che con questa sera la manifestazione a Bergamo a guidare la Lega ormai del trio resti solo Bossi. Altra intervista ad un ministro su un altro quotidiano, che è La Stampa, intervista al ministro Giarda, che parla invece di un'intervista più prettamente di temi economici. Risparmi per tenere i conti a posto, dice Giarda, spesa giù, ma non taglieremo le tasse. I risparmi a oggi bastano appena a non peggiorare i conti. Non abbiamo margine per tagliare le tasse, così il ministro Giarda su La Stampa. Centro pagina della Repubblica, dedicato invece a quella che viene definita la svolta del governo sulla TV. All'asta le frequenze, azzerato il cosiddetto beauty contest, saranno vendute a pacchetti, dice la Repubblica. Niente più frequenze gratis alle televisioni, a partire da Mediaset andranno all'asta. Un'ipotesi è che la banda larga venga aggiudicata per un periodo di 3 anni, da qui al 2015. Per quella data infatti è previsto lo spostamento di reti dalle TV all'accesso a internet. Ed ecco, la svolta, sceglie come taglio centrale oggi la Repubblica. La Repubblica, sulla quale compare anche l'immagine di Miriam Mafai, una vita in trincea tra giornalismo e battaglie civili. L'abbiamo sentito poco fa il direttore Enzo Mauro ricordare, Ezio Mauro ricordare la grande giornalista tra i fondatori della Repubblica. Apertura del Sole 24 Ore, dicevamo, Renzo Bossi, uno dei temi, ma il tema forte che apre il Sole 24 Ore è il lavoro, la partita delle modifiche. Domani, lo dicevamo anche in GR24, il vertice Confindustria, Abiania, Rete Imprese e Coop per emendamenti comuni su partite IVA, contratti a termine e licenziamenti. Catrica Lacchi dice: l'impianto resti, pronti a buone correzioni. E Monti che aggiunge: nessuna incertezza. Così su il Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, dove l'immagine oggi in prima pagina, che vedrete anche su altri quotidiani, è quella della visita in Israele del premier Mario Monti. Ieri sera è arrivato in Egitto, ma nella giornata di ieri è stato in Israele e ha parlato delle leggi razziali. Furono atroci, visita sconvolgente a Gerusalemme, così Mario Monti ha scritto sul libro del Memoriale dell'Olocausto. Sul Sole 24 Ore lo trovate anche su altri quotidiani. Le 6:26 minuti, abbiamo un paio di minuti per ancora qualche segnalazione curiosa prima della rassegna stampa più ampia con Alessandro Milan attorno alle 7:20. Allora, sulla Repubblica: genitori sì ai congedi fino ai 18 anni dei figli, non solo fino agli 8 anni come è ora. Diritto al part time, congedo parentali per i nonni al posto dei genitori, innalzamento fino ai 18 anni di età dei figli per la possibilità di usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro post maternità e in più mesi a casa per le mamme di bimbi prematuri. Ecco il piano del ministro Riccardi, ce lo racconta a fondo pagina questa mattina la Repubblica. Altra curiosità, sulla Stampa c'è un nuovo bestseller, o perlomeno tale si annuncia e lo è in Inghilterra, Meredith Amanda, l'ultimo appello arriva in libreria. Parliamo ancora di Amanda Knotts e della morte di Meredith Kircher. Ebbene, un libro si intitola Meredith, l'omicidio di nostra figlia e la straziante richiesta di verità. Uscirà il 26 aprile, circa 6 mesi prima della biografia che sta scrivendo anche la stessa Amanda, e lo ha scritto il padre di Meredith, John Kircher. Ecco perché la Stampa oggi titola Meredith Amanda, l'ultimo appello arriva in libreria, la biografia di Amanda, e per contro il racconto scritto dal padre invece di Meredith. E poi ultima segnalazione sul fronte dal punto di vista sportivo, la trovate oggi su molti quotidiani, in questo caso ve lo leggo dal Corriere della Sera: la resa di Balotelli, il campione cattivo che l'Inghilterra vuol mandar via dopo l'espulsione. Valentino e Valentino Rossi a fianco, scrive ad esempio la Stampa: Balo e Vale, eroi smarriti dello sport italiano, l'attimo fuggente per i due campioni, uno non sa vincere, l'altro non sa perdere. Allora eccolo il titolo della Gazzetta dello Sport: Balotelli, caso nazionale, dopo l'ultima espulsione Mancini lo ha mollato, lui chiede scuse, salva il posto in azzurro, ma arriverà da Prandelli senza giocare, sul mercato è derby tra le milanesi, per riportarlo in Italia andrà al Milan o all'Inter. Così la Gazzetta dello Sport. Prima edizione. C'è Daniele Biacchessi. Italia in controluce. È il 10 di aprile, la prima edizione di Italia in controluce con Daniele Biacchessi. La puntata di oggi è dedicata al parto, il reportage di Valentina Furlanetto. Tutti devono sapere, bisogna informare. Tutti devono sapere. Non si può, è successo un parapiglia, mi hanno bloccato mentre stavo facendo un tazzebao. Fate a tutte l'epidurale. Sì, le hanno fatto l'epidurale, è una cosa meravigliosa. L'anestesia della parte inferiore. Sì, così d'ora in poi, tutta la fine del travaglio. E il parto non soffrirà. Non capisco perché non lo facciano a tutte. Usiamo l'iPad, guidiamo i jet e siamo su Twitter, ma noi donne partoriamo esattamente come 1000, anche 2000 anni fa. Sono passati 14 anni dal film di Nanni Moretti, ma nulla è cambiato in Italia. L'epidurale, l'analgesia per partorire naturalmente ma senza dolore, è centellinata negli ospedali italiani. La copertura media è del 16%, distanti anni luce dal resto d'Europa. In Gran Bretagna, Francia e Spagna si fa l'epidurale al 70% di chi la chiede, negli Stati Uniti al 90%. Al contrario, siamo il paese europeo dove si fanno più cesarei, la media del 38% con punte del 60%. Mentre nel resto d'Europa la media è di appena il 20%. Ora tenete a mente questi dati e seguite con noi questa storia. Il 16 marzo scorso Claudia si presenta all'ospedale Sant'Anna di Torino, sta per partorire, ha già perso due figli, uno nell'utero, uno alla nascita, chiede il cesareo, le dicono di no, inizia il travaglio, il bambino non riesce a uscire e le manovre di un medico e due ostetriche non riescono a liberarlo. Claudia grida, il bambino resta senza ossigeno per 5 minuti, riporta danni cerebrali, il padre denuncia l'ospedale, la procura di Torino apre un'inchiesta. Claudia racconta in lacrime, la madre della donna non riusciva a spingere, più volte ha implorato che le venisse fatto un cesareo, invece le hanno prima bucato le membrane, poi indotto le contrazioni, continuando a insistere col parto naturale. Ora torniamo ai nostri dati. C'è un nesso fra l'alto numero dei cesarei in Italia e lo scarso uso di epidurale? Lo abbiamo chiesto al presidente dell'Associazione Anestesisti in Italia, il dottor Vincenzo Carpino. Dove vi è una bassa percentuale di parti cesarei, ben il 70% dei parti spontanei avviene in analgesia peridurale. Se venisse ampliata la platea delle donne che possono cedere l'epidurale, forse si abbasserebbe il numero di parti cesarei. Assolutamente, si dimezzerebbe se non di più. E perché non si fa, visto che costerebbe la metà? Abbiamo dato la disponibilità, però se lavoriamo in questo settore, perché ci dobbiamo dedicare a questo settore, perché in qualsiasi ora può arrivare una donna che ha bisogno di partorire, no? Veniamo a mancare in altri settori. Siete pochi, se non mi dai un insomma numero di specialisti tale che possa fare anche questa attività, devo sottrarre questi specialisti da altre attività, tipo la sala operatoria per la chirurgia, per l'otorino, la rianimazione. Italia in controluce, prima edizione, questa e tutte le altre puntate scaricabili sul podcast, siamo su Facebook, Twitter, il nostro blog, torniamo oggi, 13.30, Radio 24. Ed eccoci, allora torniamo nel frattempo con la seconda parte intanto di prima edizione, 6:39, parliamo dell'isola del Giglio. Che succede? Allora, dopo l'assaggio di libertà a Pasqua per l'ex comandante della Concordia Francesco Schettino, che ha avuto qualche ora di libertà dai domiciliari, oggi sono fissate in Corte di Cassazione udienze e Camere di Consiglio sui ricorsi di Procura di Grosseto e Difesa, la prima a chiedere per lui il carcere, la seconda la libertà. Ma intanto all'isola del Giglio che succede? Pasqua è tradizionalmente prova generale del turismo in vista dell'estate e allora siamo andati a vedere com'è con il relitto sempre lì nelle acque dell'isola. Che succede? Lo ha fatto Raffaella Calandria e allora sentiamo Walter Rossi, presidente Consorzio Mare in Mare. Rispetto all'anno scorso noi stiamo registrando un calo di un 15-20%. Dopo l'incidente della Costa Concordia, voi che tipo di reazione avete registrato? Nei primi due mesi dall'incidente della nave Concordia abbiamo subito un dichiarato proprio dai turisti, abbiamo subito un calo anche di sdette di clienti fidelizzati nel passato, e questo sicuramente dovuto alle sincere preoccupazioni di danno ambientale. Da metà marzo ad ora, grazie alle notizie che sono state pubblicate, che sono notizie vere del recupero di tutti i carburanti, delle fognature interne della nave, di tutti quei diciamo componenti più preoccupanti per l'inquinamento, noi abbiamo riscontrato una ripresa forte delle prenotazioni, tanto che alla data attuale le posso dire che stiamo registrando le stesse prenotazioni ricevute negli anni passati, quindi la situazione si è normalizzata e veramente siamo molto più sollevati anche noi. Presenza della nave, del relitto e di tutto quello che però si porta dietro, diciamo, non ha influito, non sta influendo sulla presenza dei turisti nella prossima stagione estiva al Giglio. Esatto, questo ecco per le vacanze normali che all'Isola del Giglio hanno una durata media di 10-12 giorni, quindi periodi abbastanza lunghi. Quello che temiamo, e lo temiamo veramente, è un turismo giornaliero, quindi del curioso, turismo un po' macabro, di quelli che vengono per un'ora o due al Giglio per vedere la nave e ritornare via, perché turisticamente non producono un reddito, se non per i traghetti, e creano un po' di confusione sul porto. Ecco Presidente, ma perché voi state registrando delle richieste di informazioni, casomai proprio di persone che potrebbero essere interessate quest'estate a venire a farsi il giro per vedere la Concordia? Ma siamo al corrente addirittura di agenzie viaggi che propongono questo tipo di escursioni. E così quel che succede all'Isola del Giglio. Voltiamo ancora pagina con prima edizione. Cari lettori bresciani, ecco perché ho deciso di fare un passo indietro. È il titolo della lettera aperta pubblicata dal quotidiano Brescia Oggi. Questa mattina la troverete in edicola e firmata Renzo Bossi. Una lettera aperta ai militanti della Lega del figlio del senatore, che ricordiamo ieri si è dimesso e che era stato eletto consigliere regionale in Lombardia proprio nelle liste bresciane. Ma c'è un altro documento in queste ore, a pubblicarlo è il settimanale Oggi, è un video dell'autista di Renzo Bossi che racconta e fa vedere come i soldi da Via Bellerio finivano nelle mani proprio di Renzo Bossi. Noi non possiamo farvelo vedere, ma possiamo farvelo ascoltare. Ora vi farò vedere come il consigliere Renzo Bossi utilizzerà questi fondi della Lega Nord, fondi che sono destinati a noi autisti per l'uso e il mantenimento della macchina e delle spese giornaliere. Questi fondi ovviamente sono coperti e giustificati ovviamente con scontrine o cosiddette pezze giustificative. Questi sono nostri rimborsi, fondi che ovviamente sono destinati a noi e che non potrebbero attingere i politici del partito, perché sennò potrebbero fare tutti. Ora vi farò vedere come lui adesso prenderà 50 euro da uno scontrino che mi ha dato, che io antecedentemente a questo video ho fotografato e che ho qui con me adesso, prenderà questi 50 euro. Ovviamente non sono le uniche che lui ha preso. Scontrino di benzina della sua macchina. €50. Sono un cretino, mi sono vestito col jeans. Invece pensavo di curare un ospedale. Ascolta, ti ho preso scontrini in borsi, ho le ultime cose. Ah, perfetto. Te sei a posto. Ma è stato. Questo è il video, la voce che avete sentito in chiusura è quella di Renzo Bossi, questo è il racconto del suo autista, ci sarà molto da dire ancora in giornata, ne parleremo anche nei nostri GR24, questa sera ci sarà la riunione a Bergamo dell'Orgoglio Padano, ci andremo anche noi di Radio 24 e domattina vi racconteremo come sarà andata la serata di oggi. Nel frattempo siamo pronti ancora a voltare pagina. Io saluto il nostro ospite di questa mattina, Valentina Colombo, docente di geopolitica del mondo islamico dell'Università Europea di Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi. Perché? Perché oggi sarà una giornata davvero importante per la Siria. Allora, il tempo del traffico e poi ne parliamo tra poco. Prima edizione. Siamo molto preoccupati per la situazione della Siria, ne ho parlato in tutti i miei incontri in questi giorni nel Medio Oriente. Non sono in grado naturalmente in questo momento, come credo nessun leader politico di nessun paese, di prevedere cosa succederà da domani. E le parole le avete sentite, sono ieri pronunciate ieri a tarda sera dal Presidente del Consiglio Mario Monti, appena arrivato al Cairo e a margine della cena con gli imprenditori e la comunità italiana nella residenza dell'ambasciatore italiano in Egitto. La questione sarà tra l'altro al centro dell'incontro che il Presidente del Consiglio italiano avrà oggi al Cairo con il segretario generale della Lega Araba. Perché? Perché che succederà da oggi? Perché se lo chiede Monti? Perché oggi scade l'ultimo dell'ONU per Damasco ed è per questo che questa mattina abbiamo con noi Valentina Colombo, docente di geopolitica del mondo islamico dell'Università Europea di Roma, per capirne un po' di più. Allora, ancora buona giornata e cominciamo proprio da qui. Oggi tecnicamente che succede? Oggi tecnicamente scade l'ultimatum posto da Kofi Annan di un cessate il fuoco al regime siriano. Sta di fatto che la situazione che noi leggiamo in questi giorni dalle notizie che arrivano dall'area fanno capire che il regime di Assad tutto farà fuorché cessare le armi. Leggevo poco fa i titoli della televisione, del sito della televisione satellitare all'Arabia, dove si parlava addirittura di carri armati a Damasco, cosa che non era mai successa. Quindi addirittura alza l'asticella anziché abbassarla come chiesto dall'ONU. Assolutamente, i morti in questi giorni, se è possibile, sono addirittura aumentati rispetto, purtroppo dobbiamo dire all'ultimo anno, non agli ultimi mesi, ultimo anno in cui le vittime giorno dopo giorno ci sono state, sono aumentate, noi non ne abbiamo avuto notizie, ma chi come me è in contatto con attivisti siriani sa benissimo che questa è una situazione che si protrae da più di un anno con numero di vittime molto elevato, che purtroppo in questi giorni sta aumentando ancora di più. È stato posto questo ultimatum, ma questo punto pare improbabile anche dalle notizie che ci stai dando tu, che venga in qualsivoglia modo rispettato. Sentivamo un Monti abbastanza preoccupato, perché a questo punto la comunità internazionale in qualche modo dovrà agire se non sarà rispettato un ultimatum così forte. Secondo te? Ma assolutamente, il problema è che la comunità internazionale avrebbe dovuto agire, a mio parere, ben prima. Ora abbiamo una situazione che è una situazione in cui appunto abbiamo il regime che si è ulteriormente, diciamo, rafforzato e armato contro quelli che vengono definiti appunto dal regime siriano i gruppi terroristici, quale l'Esercito Siriano Libero e altre associazioni definite appunto dal regime a delinquere, per cui il regime chiede una protezione, delle garanzie scritte contro questi gruppi terroristici. È chiaro che le forze in gioco in Siria non sono soltanto il regime, l'esercito siriano libero, ma sono anche forze quali i Fratelli Musulmani, che nel frattempo si sono ben organizzati. Ci sono preme per intervenire nella comunità internazionale? C'è chi preme per intervenire, secondo me tutti vorrebbero fare qualcosa, ci sono degli schieramenti, per esempio la Russia che ha dato dei cenni di avvicinamento al regime siriano, ma questo è un avvicinamento storico, però mettere mano in Siria oggi significa veramente rischiare di scatenare un conflitto che va ben al di là. Non dimentichiamoci che ieri il regime siriano ha sconfinato sia in Turchia attaccando dei bombardando i campi profughi, i campi profughi, ma anche in Libano, nella Valle della Becca, per cui diciamo. E poi intervenire come, nel senso che si parla di intervento armato a questo punto? Ma è questo il problema, che a questo punto credo che l'unica soluzione possa essere un intervento armato. Un intervento armato nell'area, noi sappiamo benissimo che ci sono degli equilibri in quell'area delicatissimi, non da ultimo la presenza di uno Stato come Israele, che è mal visto da tutti i confinanti, che deve difendere, diciamo, a spada tratta i propri confini, e che di sicuro in un modo o nell'altro, la Galilea è al confine con il Libano, per cui è già stata teatro di scontri in passato, e bisogna tener conto di tutto questo. Una polveriera pronta ad esplodere già di suo. Assolutamente. Allora, sentivamo Monti in Egitto, oggi ci si proverà ancora con la via diplomatica, ci proverà anche il governo italiano, di sicuro nelle prossime ore gli occhi dovranno essere puntati sulla Siria, su quello che succederà. Abbiamo cercato di raccontarvelo già questa mattina con Prima Edizione, ringrazio e saluto Valentina Colombo, docente di geopolitica del mondo islamico dell'Università Europea di Roma, buona giornata. Buona giornata a voi. Buon martedì 10 aprile a tutti da Anna Migliorati, ci risentiamo tra poco con GR24.